Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È venerdì 20 di luglio 2012, io non so dove siate in questo momento, non so se state partendo per le vacanze, se invece state ancora lavorando o se siete tornati dalle vacanze. Tant'è, noi siamo ancora qui, siamo qui fino alla fine di luglio con il meglio di Voi Siete Qui. Voi Siete Qui è un programma in cui si racconta una storia al giorno, l'abbiamo fatto per tutta la stagione 2011-2012, continuiamo a farlo anche per la prossima. Per questo mese però, per tutto il mese di luglio, riproponiamo alcune tra le migliori storie trasmesse lo scorso anno. Questa in particolare è andata in onda proprio lo scorso anno, cioè nel dicembre del 2011. Per raccontarvela però io vorrei rinfrescarvi la memoria con un'altra storia, perché questa è davvero molto simile, ma anche se finisce in un altro modo, fortunatamente. Vorrei raccontarvi la storia di Aaron Ralston. Aaron Ralston è un ingegnere americano che per passione fa lo scalatore. Il 26 aprile del 2003 Aaron rimase intrappolato in un canyon con un masso pesantissimo, pesava quasi un quintale, intrappolato in questo canyon perché questo masso gli bloccava il braccio destro contro una parete di roccia. Ralston era un escursionista molto esperto che viveva in montagna e riesce a resistere per un bel po' di ore, per l'esattezza 127 ore, con questo braccio schiacciato, chiuso in questo canyon totalmente isolato dal resto del mondo, finché non fa una cosa che sembra impensabile e invece, conoscendo la sua storia, pare veramente l'unica via d'uscita per sopravvivere. Questa storia è diventata prima un libro e soprattutto è diventato un film molto bello che si chiama proprio 127 ore. Se siete in vacanza e se avete tempo e non l'avete ancora visto, guardatevelo. Ve la racconto questa storia perché la storia di Massimo, ripeto, è molto simile. Non finisce in quel modo lì, anche se non vi ho detto come finisce quella storia lì, però in generale, sappiate che finisce meglio. Racconta di un uomo che va a pescare, con i propri figli, e succede un piccolo imprevisto, un imprevisto piccolo quanto un piccolo sasso che lui sposta, e da lì succede un concatenamento di avvenimenti che non vi sto a raccontare, ve le racconta direttamente lui. Questo, diciamo, di Voi Siete Qui era il filone un po' ultimo minuto, un po' tipo azione, thrilling e oddio chissà come andrà a finire. Va a finire bene, si chiama Con un solo braccio. 2007, il 3 settembre. Primo giorno di vacanza sull'Appennino tosco-emiliano, in provincia di Parma, dove i miei genitori hanno una specie di agriturismo, senza avere mai iniziato alcun tipo di attività commerciale. La giornata era splendida. Io, come al solito, con i miei due bambini mi preparavo ad andare a pescare al fiume. La mia casa si trova su un cocuzzolo a 750 metri di altitudine e il fiume Parma scorre di sotto, nella valle. La mamma a casa, a leggere in giardino, mentre io, Chicco e Giacomo sulla motora trial per un chilometro giù dalla montagna. Uno davanti, quello di 2 anni, e dietro quello di 6. Canetolo di Corniglio, in provincia di Parma, è il paese natale dei miei genitori. E tutti gli anni ci troviamo lì, soprattutto per le vacanze estive. Mi lega tantissimo perché da quando ero piccolino con mia nonna che praticamente visito questo posto tutti gli anni, e a suo tempo ci stavo sempre 3 mesi. Il luogo, diciamo, dove è successa la cosa è molto vicino alla casa ed è uno dei luoghi dove io ci giocavo spesso. Cosa c'è di particolare nel pescare in un fiume? Niente, se non fosse che dalle mie parti c'è un'usanza. E da quando sono bambino, gli anziani mi hanno insegnato a pescare con le mani. Sì, con le mani. Braccio in grotta a cercare il pesce, chiudi la fuga e lo prendi per le branchie. Sì, lo so, non è molto legale. Ma cosa c'è di più difficile di prendere un pesce viscido tra le mani? Anni e anni di pesca, trote fario, anche di 1,5 chili. Ma il 3 settembre avrebbe segnato la mia vita. Ero in acqua da un'ora. Avvisai i bambini che ancora l'ultimo pesce e poi torniamo a casa dalla mamma. Loro sulla riva, a lanciare sassi nell'acqua. Misi il braccio sotto un masso enorme. Toccai appena un piccolo sassolino che si spostò. E spostandosi tolse l'appoggio a quello più grande, che rotolò e mi franò sulla mano, fracassandomi il braccio. Tra le urla di dolore il masso mi bloccò immerso fino al collo, nell'acqua gelida del torrente. Il piccolo mi sentì urlare e si bloccò a 2 metri da me. Il più grande continuava a dire che stavo scherzando. Se fossi svenuto sarei morto affogato, ma se passava troppo tempo rischiavo l'ipotermia. Chiamai il figlio più grande, 6 anni, gli dissi: piccolo, devi andare sulla strada a cercare qualcuno, altrimenti papà muore nel fiume. Oggi devi diventare grande. 600 metri in mezzo al bosco, scalzo, riesce ad arrivare alla strada. Dopo 5 macchine, qualcuno finalmente si ferma. Lo segue sul greto del fiume, mi vede e chiama i soccorsi. Intanto è passata un'ora. Arrivano l'elisoccorso, 2 ambulanze, i vigili del fuoco e infine l'elicottero dei pompieri di Bologna con l'attrezzatura per sollevare 7 quintali del macigno che mi sta schiacciando il braccio. Mi estraggono, mi li trasportano a Parma, all'ospedale maggiore. Mi promettono che faranno di tutto per salvarmi il braccio. Mi faccio 3 giorni di rianimazione. Scongiurata l'ipotermia, braccio paralizzato e 2 figli che mi hanno salvato. Chicco ha compiuto l'impresa, mentre Gabriele, piangendo, mi ha mantenuto vigile. In quel giorno mi rimane il fatto che la mia vita stava per finire e che è stata forse una delle prime volte che ho dovuto veramente contare sugli altri e su tutta la gente che quel giorno lì ha collaborato per potermi salvare. Il braccio era diventato grosso come una gamba. Nei mesi successivi, elettrostimolazioni e a casa una grande forza di volontà. E dopo 2 mesi, un piccolo movimento del mignolo mi diceva che il braccio l'avrei recuperato. Non completamente, ma abbastanza per fare i miei lavori. Ad aiutarmi in questa impresa, un kit di rafforzamento braccio composto da cavigliera, una tartaruga ripiena di sassolini e un reggibraccio. Per me la vita è ricominciata davvero nell'acqua di quel fiume. Ci sono momenti in cui la nostra vita si ferma, rimane sospesa e poi riparte. Quei momenti posseggono uno strano potere, misterioso. Sono i momenti che stanno a metà. Sono come delle smagliature temporali. Attimi in cui il tempo improvvisamente si dilata. Sembra non finire mai. Anzi, sembra proprio avere una durata impalpabile. Come se i secondi, i minuti, le ore non bastassero più a misurarlo. È capitato a tutti. È capitato in maniera traumatica, oppure no. È capitato quando la donna che amavamo ci ha lasciati, o quando ci hanno detto che il nostro lavoro finiva quel giorno, quando abbiamo saputo che una persona cara non c'era più, oppure quando qualcosa è andato storto, così storto che abbiamo temuto potesse non raddrizzarsi più. Ma è successo anche quando abbiamo ottenuto qualcosa per cui avevamo lottato, quando siamo stati promossi, assunti, premiati, quando ci siamo innamorati e quando abbiamo pianto in un modo in cui non pensavamo di essere capaci. Rimanere bloccati con un braccio sotto un masso di 7 quintali, nell'acqua gelida di un torrente che ti arriva alla gola, si avvicina più alla sceneggiatura di un thriller, piuttosto che alla vita vera. Eppure è un esempio lampante di quel tipo di istanti. Quando avevo 17 anni, un giorno ho iniziato ad avere la febbre alta. Era una febbre che non passava. Prima il medico, poi il pronto soccorso e poi l'ospedale. Dal primo giorno a letto, all'esito degli esami, sono trascorsi 5 giorni. Non molti, ma abbastanza per inquietarsi, per chiudersi in una serie di domande che alla fine si è posto chiunque sia stato toccato da qualcosa che non si capiva cosa fosse. Eppure l'attimo più lungo, l'attimo più immisurabile, fu quello della lettura degli esami. Alla fine era una cosa da nulla, passò in pochi giorni, ma di quel momento lì, del medico che entra nella mia stanza e sorride, che mi legge dei numeri e dei dati indecifrabili, io ricordo non tanto i dettagli. Ricordo che per la prima volta, a 17 anni, io vidi la mia vita tutta in una volta sola. Come in un grande planisfero, in cui sono disegnati i confini degli stati e i contorni degli oceani. Ecco, in quel momento di mezzo, io vidi la mia vita. E da quel giorno ripresi a vivere con una consapevolezza che prima non avevo mai avuto. E alla fine forse non cambiò nulla. Invece forse sì. Sono dei momenti che gettano una luce diversa non solo su quello che siamo, ma su quello che siamo stati, sulla nostra vita passata, come se improvvisamente vedessimo le cose da una prospettiva diversa, come se in quel piccolo istante che non finisce più ci fossimo spostati di qualche centimetro dal punto in cui siamo sempre stati e per quella frazione della nostra vita noi vediamo le cose da un'angolazione diversa. Ne percepiamo dei lati mai visti, angoli, dettagli che da dove ci trovavamo prima non riuscivamo a vedere. Poi le cose si riaggiustano e noi torniamo dove era giusto che stessimo. Però abbiamo una consapevolezza diversa. Abbiamo uno sguardo diverso. Alcuni li chiamano momenti catartici, altri epifanie. Quello che lasciano però è qualcosa di stravolgente, che in qualche modo misterioso cambia la nostra vita. Io non lo so, forse c'è un momento di mezzo tra le cose, tra tutte le cose che viviamo. Un momento impercettibile che divide chi eravamo prima da chi saremo tra un attimo. In quel momento lì siamo qualcosa di diverso da noi stessi, siamo qualcosa che sta a metà. Poi quegli attimi passano e la vita ricomincia, o forse meglio, la vita comincia. 349-238-6666, Pietro scrive: la mia vita è rimasta appesa quando mi sono tuffato per la prima volta da uno scoglio. Mi è sembrato di vedere il fondale all'improvviso molto più basso di come mi era sembrato. Poi sono uscito dall'acqua e ho respirato. Evidentemente la storia di Massimo ha tirato cose da un po' da ultimo minuto, però devo dire che nessun messaggio ha ancora raggiunto il livello della sua storia. Pronto Massimo? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Grazie per essere qua innanzitutto e grazie per la tua storia. E la prima cosa che mi viene da chiederti ovviamente è come sta il tuo braccio adesso. Ma il mio braccio adesso l'ho praticamente... Allora, la mano è recuperata, diciamo, quasi al 100%. E la forza del braccio, chiaramente mancando un pezzettino di muscolo, comunque ancora non a posto, non lo sarà mai. Però riesco a fare qualsiasi cosa senza nessun problema, solo qualche difficoltà quando devo tenere un peso per un tot di secondi di fila, allora mi molla, diciamo. Perché hai dovuto fare, dicevi, una parecchia riabilitazione, giusto? Beh sì, ho fatto praticamente 2 mesi col braccio completamente paralizzato e poi dopo, diciamo appena sono tornato a casa dall'ospedale, appena sono uscito dalla rianimazione e tutto quanto, ho ricominciato subito con una grandissima forza di volontà. Beh, immagino. Senti Massimo, dove si trova esattamente il posto? Perché guardavo anche da questa pagina di giornale che ci hai mandato, no? Parmense, è la zona di Parma, anche perché il fiume è il Parma, giusto? Sì, il fiume è il Parma, si chiama proprio così, e scorre praticamente circa 700-800 metri sotto, diciamo, la mia casa. E io da piccolino, come nel racconto, niente, vado a fare questa cosa che non è una cosa perfettamente legale. Questa cosa del pescare con le mani, infatti, perché la descrivi, però io vorrei capirla un po' meglio. Cioè tu aspetti il pesce sotto il sasso, praticamente? No, io praticamente diciamo che funziona in questo modo: si sale il torrente e si provano tutti i sassi. Chiaramente con un po' di esperienza si sa quello dove il pesce può essere veramente sotto. Nel momento in cui si mettono le braccia sotto il sasso si trovano i due buchi praticamente dove entra il pesce, e se sono due è chiaro che da una parte gli toppi la fuga e dall'altra cerchi di andarlo a prendere. Se sono più di due ti scappa, chiaramente, e questa è un pochino la tecnica. Ma per le branchie poi si tira fuori. Ma scusa, il pesce ha un sapore diverso rispetto a quando lo peschi con l'amo? No, è proprio semplicemente una pratica del posto? No, non credo che ci sia una differenza, però è chiaro che una trota fario di fiume ha un sapore completamente diverso da una trota che si può pescare in un laghetto artificiale o anche in un lago normale, insomma. Ma nel senso che una trota fario la puoi pescare solo in quel modo lì? Beh, la fario è una trota da fiume, poi se capita magari di prenderne una nel lago è perché magari c'è appena entrata con il corso del fiume, okay, insomma. Okay, però è capito. Proprio una trota da fiume che ha la caratteristica di avere questi puntini rossi laterali ed è molto ma molto più buona delle altre. Senti Massimo, tu l'hai visto il film 127 ore, immagino? Io non l'ho visto, però ho letto qualcosa perché c'era una rivista che mi hanno portato dei miei parenti, perché mi hanno detto: quando abbiamo visto questa cosa abbiamo pensato a te. Ma non l'hai visto perché non hai intenzione di vederlo? No, sinceramente è perché non l'ho visto ma lo vorrei vedere assolutamente. Anche perché non credo siate in tanti proprio nel mondo a essere rimasti incastrati sotto un masso, no? No, penso proprio pochi, anche perché questa pratica credo che non la faccia più nessuno, quindi poi lui... è difficile riuscire a rimanere lì. Certo, in realtà la sua storia è diversa, nel senso che stava semplicemente arrampicando e scivolato in un canyon, però comunque, ovviamente quando ho letto il tuo racconto, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella. Senti, poi ti saluto davvero Massimo, e i tuoi figli adesso quanti anni hanno? Allora, uno ne ha 11 e uno ne ha quasi 7. E quello che ha 11 è quello che è corso in strada a chiedere soccorso, giusto? Quello che ha 11 è quello che ha fatto il miracolo. Senti, e cosa ne parlate ancora di quel giorno? Cosa si ricordano? No, ogni tanto capita che qualcuno mi chiede come va il braccio e tutto quanto, e Enrico, che è quello più grande, si avvicina molto a me e aspetta che io racconto. Adesso la cosa, secondo me, lui gli fa molto piacere, perché è chiaro che sa di aver fatto una cosa, cioè è consapevole lui. È consapevole lui del fatto che ha una grande responsabilità sul fatto che tu sei ancora qui. Assolutamente sì, glielo ricordo spesso io la sera. Massimo, senti, grazie mille per il tuo racconto e per la chiacchierata. Ti auguro in bocca al lupo per tutto. Matteo, grazie a te, ci sentiamo prossimamente. Ciao, buona giornata, ciao, grazie. Ciao. Visto che è venerdì e che magari state andando al mare, qualcuno di voi passerà da Livorno. A Livorno c'è un porto molto importante, un porto commerciale, e sopra il porto c'è quella che credo si chiami torre d'avvistamento, torre di controllo, insomma non lo sappiamo, manco Margherita di là ha capito esattamente come si chiama. Paolino, figuriamoci, è di Senigallia, quindi cosa vuoi che ne sappia. Su questa torre di controllo sta un uomo che si chiama Francesco, che ci ha mandato il suo racconto, e il suo racconto parla della vita, non della vita militare in generale, parla di un aspetto della vita militare, parla di quando in Accademia Navale a Livorno lui si trova ad affrontare una propria paura. Il racconto è molto bello e a breve ve lo ripropongo per intero. Quando l'ho letto mi è venuto in mente il racconto di un mio amico invece, che non l'ha scritto, me l'ha solo raccontato a voce anni fa, anche lui passato dai cancelli dell'Accademia Navale di Livorno, e mi ricordo che lui, quando mi raccontava dei pezzi della vita lì in accademia, mi diceva: sai cos'è? La cosa che devi fare è devi semplicemente sospendere il giudizio e non pensare alla vita normale fuori. Se pensi alla vita normale fuori, quello che fai qui dentro ti sembra una follia. Devi immaginare che quello che accade qui dentro è un gioco. È un gioco con delle regole sue. A quel punto stai al gioco, segui quelle regole e vai fino alla fine. Credo che sia stato quello che più o meno ha fatto anche Francesco per arrivare poi a quella torre di controllo, torre di vedetta che si trova lì al porto di Livorno. In questo caso però lui, appunto, per stare a queste regole affrontava le sue paure e le affrontava arrampicandosi in cima al brigantino. Ecco, è arrivato il momento. Pensai così quella fredda mattina di gennaio del 1994, guardando il brigantino sul piazzale dell'Accademia Navale di Livorno. Per chi non lo sapesse, il brigantino è una copia dell'albero maestro della nave Amerigo Vespucci, su cui noi, allievi ufficiali di complemento, dobbiamo compiere i cosiddetti giri di barra, che vuol dire arrampicarsi sulle sarti e fino alla seconda coffa, per poi discendere dal lato opposto. Sì, sono termini tecnici, lo so, ma in sostanza, in poche parole, si tratta di fare pratica su una barca finta. In classe nostra si presentò il professore di religione, che era tra l'altro anche il padre dell'accademia, e disse: ragazzi, sa che c'è di bello? Dovete fare il militare ed è obbligatorio, allora tanto vale farlo come ufficiali. Fate un concorsino e se lo vincete, anziché farlo come marò servizi vari a lavare i piatti, magari avete un'esperienza più costruttiva. E il 3 gennaio del 94 varcai le soglie dell'Accademia Navale. Iniziai la salita, ma il dubbio diventa una certezza. Le mani iniziano a sudare, il cuore mi batte all'impazzata. Mi fermo ad appena 3 metri di altezza e mi aggrappo fortissimo alle cime. E intanto gli altri allievi intorno a me mi superano da ogni parte. Ho le vertigini. Scendo e mi rimetto in fila sull'attenti, senza aver compiuto il mio giro. La paura del vuoto è più forte della vergogna di non aver superato la prova. Mi sento un misto tra Palla di Lardo in Full Metal Jacket e un qualsiasi bimbo che sale per la prima volta sullo scivolo. Più tardi, nell'ufficio del comandante del corso, la situazione è molto chiara. Senza quel giro di barra, io sarò espulso dall'accademia. E probabilmente mi ritroverò a fare il militare come lavapiatti, su qualche dragamine. Così nei giorni seguenti provo e riprovo, ma niente. Quei 3 metri diventano una barriera insuperabile. Il mio corpo semplicemente si rifiuta di proseguire oltre. E già vedo crollare i miei sogni di gloria. Non è una bella sensazione, ma non so che farci. Finché, qualche giorno dopo, nell'aula di scienze marinaresche bussano alla porta e mi sento chiamare. È l'aspirante guardia marina inquadratore, un pauroso istruttore dai capelli rosso fuoco, che mi aspetta fuori dall'aula. Fermo sull'attenti ascolto quelle parole fatidiche che alle mie orecchie suonano come una condanna a morte. Ora, allievo, io la accompagno al piazzale e lei salirà su quel brigantino. Lo seguo come un condannato al patibolo e di nuovo sono sotto il brigantino. Sali, mi ordina dandomi inspiegabilmente del tu. Lo guardo e penso: ok, se è così che deve finire, e sia. Inizio la salita e mi fermo ai soliti 3 metri. A un certo punto mi guardo le mani e parlo a loro: avete sentito? Fate il vostro dovere. Inspiegabilmente iniziano a muoversi. afferrano le sartie più in alto e i piedi seguono la ruota. Sto salendo. Mi sono visto scendere da quel brigantino, raccontare ai miei amici, ai miei genitori che non ce l'avevo fatta e quindi, diciamo, avviarmi verso una vita che non mi piaceva. E così forse la rabbia, forse come reazione emotiva, e sono salito. Seppure con la velocità di un bradipo arriva la fatidica seconda coffa. Su, in cima, prima di scendere mi soffermo un attimo a guardare il mare. Penso che non sia mai stato così bello e luminoso come quella mattina di 17 anni fa. Ancora oggi, nei momenti di difficoltà, mi sembra di sentire le parole di quell'istruttore, che suonano più o meno così. Non chi riesce, ma chi persevera. Il racconto di Francesco mi ha fatto molto riflettere. Come è successo con tanti altri racconti che arrivano, ovviamente. Però il suo ha anche l'innocenza dell'affrontare la paura come se fosse solo un ostacolo, e non una risorsa anche. E la semplicità nel tirare alcune conclusioni, che suonano un po' tipo chi la dura la vince, un po' lo raccontano. Ora, io non credo che le cose vadano solamente così. Vanno anche così, però vanno anche in maniera diversa. Cioè che in fondo se uno ha paura, ci sarà qualcosa che gliela causa, no? È forse bene che ci sia, e quindi ci tiene lontano dai pericoli. Tipo se un bambino non avesse paura del buio, ad esempio, potrebbe sbattere contro qualche oggetto, farsi del male. Allo stesso modo, un antilope, ad esempio, che non avesse paura di un leone, non riuscirebbe a scappare, no? E verrebbe uccisa. Che poi non so se le antilopi vengono seguite dai leoni, ma tant'è. Ma anche le paure comuni degli insetti, dei topi, no? Che alla fine nascono dal fatto che si tratta di animali potenzialmente aggressivi, che non conosciamo, o che nel passato hanno causato epidemie. Insomma, non tutte le paure vengono per nuocere. Però spesso noi facciamo confusione, perché dentro di noi c'è un groviglio di cose che nessuno ha ancora capito bene come funzioni, ma che a volte ci fa essere terrorizzati anche in situazioni completamente innocue. Francesco, ad esempio, stava salendo su una struttura e a 3 metri di altezza si è fermato. E sarebbe facile dire che in fondo 3 metri è un'altezza importante e cadere da lì è già un problema, per cui salire ancora sarebbe stato peggio, e quindi la sua paura è giustificata. Lui però l'ha vissuto un po' come una paura esistenziale, qualcosa di scollegato dal reale pericolo che stava correndo. Cioè lui era un militare, no? Era pronto a morire o a uccidere se doveva, e non sarebbe stato qualche metro di altezza fermarlo. E allora chissà che cosa gli ha provocato quel blocco, e chissà perché crede che a furia di insistere tutte le paure si possano vincere. In fondo la soluzione non è stata provarci e riprovarci 1000 volte da solo finché non ci fosse riuscito. No, la soluzione è stata con un suo superiore, lo ha preso e lo ha obbligato a fare quello che era giusto che facesse. Un po' come fa il papà con il suo bambino. Lo rassicura, forse con un tono un po' brusco, gli dice che andrà tutto bene. Ed è quella convinzione che gli ha fatto superare il terrore. La consapevolezza di non essere da solo, di avere qualcuno che si preoccupa per te e che tu riesca a fare quello che sei lì a fare. E tutto questo non ha a che fare con l'altezza, tutto questo ha a che fare con la fiducia. E poi la domanda che mi faccio sempre è: perché avere paura di situazioni che di pericoli veri e propri non portano? E ci sono 1000 spiegazioni, sono tutte sensate ovviamente, io però più o meno una mia idea me la sono fatta. Io non ci penso spesso, ma c'è una cosa che ci accomuna e che pochi nominano. Ed è la fine, no? Ed è che un giorno, presto o tardi, per un motivo che non c'è chiaro, ognuno di noi perderà colore alle guance e cadrà a terra. Ecco, di questo, della morte, è giusto avere paura, anzi è forse l'unica cosa che può paralizzare anche il più ottimista dei monaci buddisti se lo pigliano la giornata storta. Eppure pochi tra di noi si alzano dal letto pensandoci, per fortuna, e questo è sano. Ma quella paura però rimane sotto traccia, silenziosa. E allora dobbiamo costruirci degli sfoghi, no? Per questo sentimento così forte, per questa paura, ci creiamo degli oggetti di terrore, così da vivere la nostra vita senza troppo dolore. E quindi chi ha paura dei professori a scuola, chi di volare, chi di mangiare cibo avariato, chi della nebbia, chi degli zingari, e chi di qualcuno che ti fa bu spuntandola dietro la porta. Alla fine, secondo me, dovremmo pure ringraziarle, le paure, perché ci fanno pensare ad altro. Ecco, io ad esempio ho paura dei viadotti, cioè non credo per davvero che possano cadere improvvisamente o che sui viadotti ci siano delle persone cattive che mi possano fare del male, ma quando guido e so che sto per affrontare un viadotto, il mio stomaco improvvisamente si stringe e io comincio a sudare. Di solito mi aggrappo al volante e accelero sperando che il pezzo brutto passi presto. Questo ovviamente aumenta l'adrenalina e quindi anche la sensazione brutta, però non posso farne a meno. Superata la metà del percorso comincia a stare un pochettino meglio. E quando la strada torna sulla terra, anziché nel cielo, sto bene, anzi sto da Dio. A volte mi meraviglio addirittura di aver avuto una paura così sciocca. Ed è lì che sbaglio, perché le paure bisogna rispettarle, perché ci consentono di non pensare all'unica vera grande questione, quella su cui possiamo scherzare, come hanno sempre fatto tutti, ma che rimane di fatto l'unico grande mistero che abbiamo.